Ogni anno, dall'anno successivo alla morte, abbiamo organizzato le iniziative, cioè nel 79 abbiamo organizzato una manifestazione nazionale contro la mafia che è la prima della storia d'Italia, perché abbiamo posto il problema che la mafia non era soltanto una questione siciliana, ma ormai era diventata, con il traffico di droga, con il traffico di armi e con il riciclaggio del denaro sporco, era diventata una questione nazionale e internazionale. Quindi abbiamo visto in Peppino l'erede del movimento contadino, ma anche il pioniere della nuova antimafia. E poi Peppino, nella storia della lotta contro la mafia, rappresenta un caso unico, perché contrariamente a quello che è il titolo del film, la mafia non l'aveva a 100 passi, ma la mafia l'aveva a casa sua. Cioè la mafia era soprattutto suo padre, i suoi zii, tra cui c'era Cesare Manzella, che era il capo mafia, già avviava il traffico di droga, poi Badalamenti erediterà, una volta morto nel 63 con una Giulietta al tritolo, erediterà le posizioni, diciamo, di Manzella, sia a livello locale che a livello internazionale. La mafia ha più volte mutato pelle, perché la mafia unisce insieme continuità e trasformazione. Cioè ci sono alcuni aspetti continuativi, come per esempio la signoria territoriale, cioè il controllo capillare del territorio, con aspetti di innovazione che per esempio negli anni 70 significa il ruolo quasi egemonico che ebbe Badalamenti ed altri, ebbero Badalamenti ed altri nel traffico di droghe e quindi poi nel riciclaggio del denaro sporco, eccetera. Poi c'è stata la stagione della guerra di mafia 81-83. Che ha visto lo straripare della violenza anche all'esterno, con l'uccisione dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, di magistrati, uomini delle forze dell'ordine. E la mafia, lì c'è stata la reazione, negli anni 80 c'è stata la reazione delle istituzioni, almeno di parte delle istituzioni, che hanno anche utilizzato la carta della collaborazione con la giustizia da parte di alcuni mafiosi che sono trovati come perdenti nella guerra di mafia e quindi con le spalle al muro. Ma anche qui bisogna stare molto attenti, cioè è una mafia poco visibile, nel senso che è una mafia che controlla la violenza, soprattutto la violenza rivolta verso l'alto, rivolta all'interno delle istituzioni, ma è una mafia visibilissima per quanto riguarda appunto la signoria territoriale, cioè il controllo del territorio, per quanto riguarda il ruolo degli appalti e anche per quanto riguarda il rapporto con la politica. Tra l'altro, come elemento di continuità, bisogna tenere conto che le forze dell'ordine e la magistratura indicano come l'attuale capo, almeno dell'ala più propriamente criminale, dell'ala militare, Bernardo Provenzano, che è un uomo di tutte le stagioni, cioè Bernardo Provenzano era killer con Luciano Ligio negli anni 50 e 60, è stato stragista con Riina alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 e adesso fa il grande mediatore fra i vecchi con suoi coetanei e i giovani, le giovani leve, e soprattutto privilegia, appunto attraverso questo ruolo mediatorio, privilegia il business, cioè gli affari, in particolare gli appalti di opere pubbliche, e rilancia, appunto controllando la violenza, il rapporto con le istituzioni, che è diventato abbastanza esplicito, ma il rapporto con le istituzioni è costitutivo del fenomeno mafioso, cioè la mafia differisce da altre organizzazioni criminali appunto per questo essere parte delle istituzioni, per questa sua interazione con settori delle istituzioni. Quindi la mafia di adesso è per un verso quella antica, quella di sempre, cioè quella che esercita la signoria territoriale, è quella nuova, tra virgolette, nel senso che dopo gli effetti boomerang derivanti dall'escalation della violenza mafiosa, la mafia, appunto, controllando la violenza, soprattutto quella rivolta verso l'alto, cerca di avere un ruolo abbastanza consistente nell'accaparramento del denaro pubblico e anche per quanto riguarda il controllo del sistema decisionale, quindi il rapporto con le istituzioni. Quindi è insieme antica e postmoderna, si potrebbe definire. La mafia di adesso è quella che si chiama sommersa, inabissata.